Capitolo 39. Se Sir Thomas avesse potuto conoscere tutte le sottaciute impressioni della nipote quando scrisse la sua prima lettera alla zia, non avrebbe disperato di ottenere il risultato che si era proposto decidendo quella visita, poiché, nonostante un buon riposo notturno, un tempo piacevole e la speranza di rivedere presto William, e le condizioni di relativa tranquillità che regnavano nell'ambiente domestico grazie al fatto che Tom e Charles si trovavano a scuola, che Sam era uscito per qualche suo progetto e che il padre era uscito anche lui per i suoi inconcludenti giri in città, la mettessero in condizione di descrivere con buon umore la casa paterna, Fanny continuava ad essere acutamente conscia di tutti gli inconvenienti che, scrivendo, passava sotto silenzio. Se Sir Thomas avesse potuto anche intendere solo metà di quanto lei sentiva, prima che la settimana fosse giunta al termine, si sarebbe detto certo del successo finale di Mr. Crawford e si sarebbe congratulato con se stesso per la propria sagacia. Prima della fine della settimana tutto fu delusione. Anzitutto William era partito. La Thrush aveva ricevuto l'ordine di rotta, il vento era cambiato e William era salpato 4 giorni dopo il loro arrivo a Portsmouth. E durante quei 4 giorni l'aveva visto solo 2 volte brevemente in tutta fretta quando era venuto a terra per servizio. Fra loro non vi era stata nessuna conversazione intima, nessuna passeggiata sui bastioni, nessuna visita ai cantieri, nessuna presa di contatto con la Thrush, nulla di ciò che avevano progettato e su cui avevano fatto conto. Da quel lato tutto era venuto a mancarle, eccetto le manifestazioni d'affetto da parte del fratello. Il suo ultimo pensiero, lasciando casa, era stato per lei. Era tornato sui suoi passi fino alla soglia esterna per dire: «Abbia cura di Fanny, mamma, è delicata e non è abituata ad affrontare disagi come lo siamo noi. Gliela affido, abbia cura di Fanny». William era partito e la casa in cui l'aveva lasciata era, Fanny non riusciva a nasconderselo, da quasi tutti i punti di vista esattamente il contrario di ciò che avrebbe potuto desiderare. Vi regnavano il chiasso, il disordine, la sconvenienza. Nessuno si trovava al posto che gli sarebbe spettato. Niente era fatto come si sarebbe dovuto fare. Non riusciva a rispettare i genitori. Non aveva alimentato speranze molto ottimistiche circa suo padre, ma ora lo vedeva così com'era. Più incurante della famiglia, con abitudini peggiori e modi più grossolani di quanto si fosse aspettata. Non gli mancavano le capacità, ma la sua curiosità e le sue cognizioni non andavano oltre quanto riguardava la sua professione. Leggeva solamente il giornale e il bollettino della Marina sui movimenti delle navi. Parlava solo del cantiere, del porto, di Spithead e del Mountebank. Bestemmiava e beveva. Era sudicio e volgare. Non le era mai riuscito di rammentare, nel modo in cui l'aveva trattata in passato, qualcosa che si avvicinasse alla tenerezza. Nel ricordo le era rimasta solamente una generica impressione della sua voce troppo forte e dei suoi modi rozzi, e ora quasi non le prestava attenzione se non per farla oggetto di qualche freddura volgare. La delusione che le cagionava la madre era più grande. Aveva sperato molto in lei e non vi trovava quasi niente. Ogni illusoria speranza di importarle qualcosa era presto svanita. Mrs. Price non era cattiva, ma invece di far progressi nel suo affetto e nella sua confidenza e diventarle sempre più cara, la figlia non otteneva più interesse di quanto gliene fosse stato dimostrato il giorno dell'arrivo. L'istintivo, naturale sentimento materno era stato ben presto appagato dalla sua presenza e l'affetto di Mrs. Price per la figlia non aveva altre radici. Il suo cuore e il suo tempo erano già colmi. Non aveva né tempo né sentimenti da investire in Fanny. Le sue figlie non le erano mai state specialmente care. Amava i maschi, specialmente William, e Betsy era l'unica delle ragazze alle quali avesse mai voluto veramente bene. Verso di lei era scriteriatamente indulgente. William era il suo orgoglio, Betsy il suo tesoruccio, e John, Richard, Sam, Tom e Charles assorbivano quanto rimaneva della sua sollecitudine materna ed erano alternativamente la sua preoccupazione e il suo conforto. Così era spartito il suo cuore, e il suo tempo era assorbito principalmente dalla casa e dalle cure domestiche. I suoi giorni trascorrevano in una specie di lassa agitazione, sempre indaffarata, senza concludere, sempre indietro con quello che c'era da fare, lamentandosene, senza cambiare sistema. desiderosa di fare economia ma senza metodo e regolarità, insoddisfatta delle domestiche ma incapace di guidarle, e sia che le aiutasse o le sgridasse o le compiacesse, assolutamente incapace di farsi rispettare. Delle sorelle, Mrs. Pricer assomigliava assai più a Lady Bertram che a Mrs. Norris. Si occupava delle cose per necessità, ma senza nulla della naturale disposizione di Mrs. Norris o della sua indefessa attività. La sua indole era placida, indolente, come quella di Lady Bertram, e una situazione di pari ricchezza e di dolce far niente sarebbe stata assai più adatta alla sua natura, degli sforzi e delle privazioni cui la costringeva la condizione in cui il suo imprudente matrimonio l'aveva cacciata. Avrebbe potuto essere una elegante padrona di casa, come era Lady Bertram, ma Mrs. Norris, con una piccola entrata da amministrare, sarebbe stata una assai più rispettabile madre di 9 figli di quanto lo fosse lei. Fanny non poteva non rendersi conto di gran parte di questo. Poteva farsi scrupolo di chiuderlo in parole, ma era costretta a rendersi conto che sua madre era una donna scriteriata, piena di parzialità, una perdigiorno, una sciattona, che non educava e non frenava i figli, la cui casa, da qualunque aspetto la si considerasse, era un esempio di cattiva conduzione e di disordine. Non aveva talento né conversazione, non aveva affetto da darle, non aveva nessuna curiosità di conoscerla meglio, nessun desiderio di farsene amica, nessuna propensione a ricercare la sua compagnia, insomma nulla che in qualche modo potesse attenuare queste tristi impressioni. Fanny desiderava moltissimo rendersi utile. Non voleva avere l'aria di sentirsi al di sopra della sua casa paterna o di essere giudicata per il fatto di essere stata educata in un ambiente estraneo, inadatta o restia a contribuire col suo aiuto al benessere domestico. Perciò si mise immediatamente a lavorare per Sam e, agucchiando dalla mattina fino a tarda sera con perseveranza e con grande assiduità, fece sì che alla fine il ragazzo fosse spedito a bordo con più biancheria del necessario. Provò grande piacere nel sentirsi utile, ma non riuscì a capire come si sarebbero aggiustati senza di lei. Quando Sam partì, lo rimpianse, per rumoroso e prepotente che fosse, perché era intelligente e capace e sempre pronto a sbrigare qualsiasi commissione in città. Certo non teneva in alcun conto le rimostranze di Susan per come le sbrigava, rimostranze assai ragionevoli in sé, ma espresse con foga inopportuna, e incominciava ad essere tuttavia sensibile alle gentilezze che gli usava Fanny e ai suoi dolci modi persuasivi. E lei scoprì di aver perduto con la sua partenza quanto vi era di meglio nei 3 fratelli minori. Quanto a Tom e Charles, erano troppo più piccoli di lui, troppo lontani da quell'età in cui sentimento e ragione fanno capire quanto sia facile farsi degli amici e sforzarsi di non essere molesti. Fanny disperò ben presto di esercitare la benché minima influenza su di loro. Erano assolutamente indomabili, impenetrabili a qualsiasi ragionamento che ella trovava l'energia o il tempo di tentare con loro. Ogni pomeriggio si ripetevano per tutta la casa i loro giochi sfrenati e ben presto Fanny imparò a sospirare all'avvicinarsi della inevitabile mezza vacanza del sabato. Anche per quanto riguardava Betsy, bimbetta super viziata, educata a considerare l'alfabeto come il suo peggiore nemico, lasciata a piacimento in compagnia delle domestiche e poi incoraggiata a riferire ogni loro mancanza, quasi disperava di riuscire a volerle bene e ad esserle di aiuto. Sulla vera indole di Susan, infine, era molto incerta. Le sue continue discussioni con la madre, le liti incessanti con Tom e con Charles, la petulante opposizione a Betsy erano perlomeno altrettanto penose per Fanny, che, pur ammettendo che quel comportamento non si manifestava certamente senza provocazione, temeva che l'inclinazione naturale che lo spingeva fino a quel punto fosse lungi dall'essere amabile e atta a concederle un qualsiasi sollievo. Questa era la casa che avrebbe dovuto farle scordare Mansfield e insegnarle a pensare al cugino Edmund con più equilibrati sentimenti. Invece, non sapeva pensare ad altro che a Mansfield, alle persone amate che vi abitavano, al suo perfetto stile di vita. Ogni cosa lì dove ella si trovava attualmente era in pieno contrasto con tutto quanto rievocava: l'eleganza, la proprietà, la regolarità, l'armonia e forse, sopra ogni altra cosa, la pace e la tranquillità di Mansfield le tornavano in mente ad ogni ora del giorno, messe in rilievo dal prevalere di ogni cosa opposta lì, sotto i suoi occhi. Vivere in mezzo a un trambusto incessante era per un fisico e un'indole delicati e nervosi come quelli di Fanny, un male che nessun correttivo di eleganza o di armonia avrebbe potuto compensare completamente. Ed era questo il male peggiore. A Mansfield non si udiva mai eco di contesa o voce troppo alta, mai nessuno irrompeva all'improvviso in una stanza o camminava rumorosamente. Ogni cosa procedeva con ritmo regolare, con ordine lieto. Ciascuno aveva l'importanza che gli spettava. Si teneva conto dei sentimenti di ciascuno. Anche dove si poteva avere l'impressione che la tenerezza difettasse, il buon senso e la buona educazione supplivano, e in quanto alle leggere irritazioni cagionate ogni tanto dalla zia Norris, duravano poco, erano di poco conto, erano come una goccia d'acqua rispetto all'oceano, se paragonate all'incessante tumultuoso della sua presente dimora. Qui ciascuno era chiassoso, ogni voce era troppo alta, eccetto forse quella della madre che rammentava il tono dolcemente monotono di quella di Lady Bertram, ma incrinato da una perenne trepidazione. Qualsiasi cosa si desiderasse veniva richiesta urlando, e le domestiche urlavano le loro risposte dalla cucina. Le porte sbattevano continuamente, il via vai sulle scale non cessava mai, niente era fatto senza clamore, nessuno sedeva in silenzio e nessuno, quando parlava, otteneva dagli altri la benché minima attenzione. Confrontando le due case, quali le valutava dopo una settimana dal suo arrivo, Fanny era tentata di applicar loro il celebre giudizio del dottor Johnson sul matrimonio e il celibato, e si diceva che, benché Mansfield Park potesse avere alcune spine, Portsmouth non poteva avere fiori. Capitolo 40. Fanny non si era ingannata, pensando che ormai non avrebbe più ricevuto notizie da Miss Crawford con lo stesso rapido ritmo con cui la loro corrispondenza aveva avuto inizio. La prima lettera di Mary a Portsmouth giunse dopo un intervallo decisamente più lungo del solito. Ma non aveva avuto ragione nel supporre che un simile intervallo le sarebbe stato di grande sollievo. Ecco un'altra strana rivoluzione dei suoi più intimi sentimenti. Quando la lettera giunse, il riceverla le diede un grande piacere. Nel suo attuale esilio dalla buona società e lontana da tutto quanto era solito interessarla, la lettera di una persona che apparteneva alla cerchia dove il suo cuore viveva, scritta con affetto e con un certo tono di eleganza, le fu del tutto ben accetta. La solita scusa degli impegni crescenti le veniva presentata per giustificare il ritardo nello scriverla. Ed ora che ho iniziato, continuava, la mia lettera non merita di essere letta da lei, perché non vi saranno brevi dichiarazioni d'amore in calce né 3 o 4 righe passionée vergate dal più devoto degli Harry Crawford. Già, Harry è nel Norfolk. È stato chiamato a Everingham 10 giorni fa da importanti affari, o forse ha solamente addotto questo pretesto per potersi mettere in viaggio mentre viaggia anche lei. Comunque è là. E a proposito, la sua assenza può essere considerata una delle cagioni della negligenza della sorella nello scriverle, poiché non vi sono stati gli ebbene Mary quando scrivi a Fanny, o non è tempo che tu scriva a Fanny, a spronarmi. Finalmente, dopo parecchi inutili tentativi di incontrarle, ho visto le sue cugine, la cara Giulia e la carissima Mrs. Rushworth. Mi hanno fatto visita ieri e siamo state molto contente di rivederci. Sembravamo molto contente di rivederci e penso che un poco lo fossimo veramente. Avevamo moltissime cose da dirci. Devo descriverle l'espressione di Mrs. Rushworth quando è stato fatto il suo nome? Non pensavo che mancasse di autocontrollo, ma non ne ha avuto a sufficienza per far fronte al caso di ieri. Nell'insieme, Giulia aveva l'aspetto migliore delle due, almeno dopo che fu fatto il suo nome. Il viso di Maria non riprese un colore naturale dal momento in cui io parlai di Fanny e ne parlai come lo fa naturalmente una sorella. Ma Mrs. Rushworth recupererà il suo bell'aspetto. Abbiamo ricevuto biglietti d'invito per il suo primo ricevimento il prossimo 28. Allora sarà una bellezza perché aprirà una delle più belle case di Wimpole Street. Ci sono stata 2 anni fa, quando era di Lady Lascelles, e l'ho preferita a quasi tutte quelle che conosco in Londra. E certamente, allora capirà, tanto per impiegare un modo di dire alquanto volgare, di aver ricevuto il valore di un penny in cambio del penny che ha speso. Harry non avrebbe potuto permetterle il lusso di una simile casa. Spero che penserà a questo e si sentirà soddisfatta quanto meglio potrà, atteggiandosi a regina del palazzo, anche se sarà meglio che il re rimanga sullo sfondo. E siccome non desidero stuzzicarla, non le imporrò mai più di udire dalle mie labbra il suo nome. Si calmerà un poco. A quanto sento dire, immagino, le attenzioni del barone Wildenheim per Giulia continuano. Ma non mi consta che gli riceva serio incoraggiamento. Giulia può aspettare di avere una migliore occasione. Un honorable povero non è una gran preda e non posso riconoscere alcuna attrattiva al personaggio perché se gli si tolgono le declamazioni al povero barone non rimane nulla. Che differenza fa una vocale inglese? Se le sue rendite fossero pari alle sue declamazioni. Ah! Suo cugino Edmund è lento a mettersi in movimento. Forse è trattenuto dai doveri che gli impone la sua parrocchia. Può darsi che a Thornton Lacey ci sia una qualche vecchietta da convertire. Non sono disposta a pensarmi trascurata per una giovane. Addio, mia cara, dolce Fanny. Questa è una lunga lettera da Londra. Me ne scriva una carina in risposta per allietare gli occhi di Harry quando tornerà. E mi mandi l'elenco di tutti gli arditi giovani capitani che lei disdegna per amore di lui. Vi erano molte cose su cui meditare in quella lettera. E si trattava principalmente di meditazioni spiacevoli. Eppure, nonostante tutto il senso di disagio che suscitò in Fanny, la metteva in contatto con l'assente. Le parlava di cose e di persone per le quali non aveva mai provato tanta curiosità come in quel momento. E sarebbe stata lieta di avere la certezza di ricevere una lettera come quella ogni settimana. La corrispondenza con la zia Bertram era la sua sola forma di evasione. Quanto a eventuali conoscenze lì a Portsmouth che potessero in un modo o nell'altro compensarla delle deficienze riscontrate nella casa paterna, non ve n'era alcuna nella cerchia delle relazioni di suo padre o di sua madre che potesse minimamente attrarla. Non vedeva nessuno che la inducesse a vincere la propria timidezza o il naturale riserbo. Tutti gli uomini le apparivano volgari, tutte le donne impertinenti. Tutti insieme di educazione inferiore e lei dava agli altri tanta poca soddisfazione quanta ne riceveva, quando era presentata a vecchie e nuove conoscenze. Le giovani signore, che a tutta prima l'avevano avvicinata con un certo rispetto, in considerazione del fatto che veniva dalla famiglia di un baronetto, ben presto furono offese da quelle che chiamarono le sue arie. Visto che, siccome non suonava il pianoforte e non indossava ricchi mantelli, non potevano, dopo un ulteriore esame, ammettere una sua qualsiasi superiorità. La prima consistente consolazione che Fanny ricevette in compenso ai mali domestici, la prima che il suo giudizio poté accogliere senza riserve e che le offriva una qualche probabilità di durata, le venne dal conoscere meglio Susan e dalla speranza di esserle utile. Susan si era sempre comportata piacevolmente nei suoi confronti, ma il carattere deciso dei suoi modi, in ogni circostanza, avevano sbalordito e allarmato Fanny, e le ci vollero almeno 15 giorni prima di incominciare a capire un'indole così totalmente diversa dalla propria. Susan vedeva che molte cose andavano storte in casa e voleva raddrizzarle, che una ragazzina di 14 anni, che agiva unicamente spinta dal proprio buon senso, senza consigli di sorta, dovesse sbagliare nella scelta dei metodi con cui attuare una riforma era più che comprensibile. E ben presto Fanny si sentì disposta ad ammirare l'innata chiarezza di una mente che in così giovane età sapeva valutare e discernere, piuttosto che a censurare severamente gli errori di comportamento che ne derivavano. Susan agiva solamente in base alle stesse verità e in vista degli stessi risultati che il personale giudizio di Fanny riconosceva giusti, ma che la sua indole più supina e remissiva avrebbe evitato di affrontare. Susan tentava di rendersi utile là dove lei avrebbe solo saputo andarsene a piangere in un cantuccio, e che Susan fosse utile se ne poteva accorgere, che le cose, per quanto male andassero, sarebbero andate peggio se fossero venuti a mancare i suoi interventi che frenavano alcuni sgradevoli eccessi di indulgenza e volgarità ai quali sua madre e Betsy si abbandonavano. In ogni discussione con la madre, Susan, dal punto di vista della ragione, era in vantaggio e nessuna manifestazione di tenerezza materna riusciva a smuoverla. Quell'amore cieco che costantemente vedeva profondere intorno a sé, lei non lo aveva mai conosciuto. Quello che le mancava era un senso di gratitudine per dimostrazioni d'affetto passate o presenti, che l'aiutasse a sopportare meglio gli eccessi che ora vedeva prodigare agli altri. Tutto questo divenne gradualmente evidente e a poco trasformò Susan, agli occhi della sorella, in un oggetto di compassione mista a rispetto. Tuttavia Fanny non poteva non sentire che i suoi modi erano scorretti, a volte molto scorretti. I suoi interventi spesso male esternati e in momenti inopportuni e le sue espressioni e il suo linguaggio del tutto riprovevoli. Ma incominciava a sperare che li si potesse correggere. Susan, scoprì, la ammirava e desiderava la sua buona opinione, e per quanto nuova fosse per Fanny l'incombenza di esercitare autorità, per quanto le fosse nuovo immaginare se stessa capace di guidare o di informare chi che sia, prese la risoluzione di dare occasionali suggerimenti a Susan e tentare di far valere a suo vantaggio la giusta nozione di quanto era dovuto a ciascuno e di quale fosse per lei il comportamento più saggio, che una più favorevole educazione le aveva reso naturale. La sua influenza, o perlomeno la coscienza che ne aveva preso e l'uso che ne faceva, era nata da un gesto di affettuosa gentilezza, al quale si era risolta finalmente, dopo molte esitazioni, derivate dalla schiva delicatezza della sua indole. Fin da principio le era venuto in mente che una piccola spesa avrebbe forse risolto definitivamente la triste controversia a proposito del coltellino d'argento che continuamente riaffiorava, e si era rammentata della ricchezza di cui era padrona. Al momento del commiato, lo zio le aveva dato 10 sterline che la mettevano in condizione di essere generosa quanto desiderava, ma era così poco abituata a concedere favori, eccetto che ai poverissimi, così poco avvezza ad allontanare il male o a conferire tangibili prove di gentilezza ai pari grado, e così timorosa di dare l'impressione di guardare le cose dall'alto in basso per darsi un'aria da gran signora in casa dei suoi, che le occorse un certo tempo per decidere che non sarebbe stato disdicevole da parte sua fare un dono. Dunque, il dono fu fatto, finalmente. Comprò un coltellino d'argento per Betsy, che lo accettò con somma delizia, poiché il fatto di essere nuovo gli dava ogni vantaggio sull'altro. Quanto a Susan, fu reintegrata nel pieno possesso del suo, poiché Betsy dichiarò bellamente che ora che ne aveva uno tanto più grazioso, non avrebbe mai più voluto quell'altro. Né la madre, altrettanto soddisfatta, colse in quel gesto un implicito rimprovero. E dire che la figlia aveva temuto che ciò l'avrebbe urtata. Così Fanny ottenne pienamente lo scopo che si era prefissa, rimosse una causa di domestico alterco e trovò la chiave che le aprì il cuore di Susan e che diede a lei una persona in più da amare e a cui interessarsi. Susan diede prova di delicatezza, per quanto lieta di essere padrona incontrastata di un bene, per il possesso del quale aveva lottato almeno 2 anni, temeva che il giudizio della sorella le fosse contrario e che il suo intervento significasse un rimprovero implicito nei suoi riguardi, perché lei aveva lottato in modo da rendere l'acquisto del coltellino necessario alla tranquillità familiare. Aveva un carattere aperto, confessò questi suoi timori, si biasimò di aver fomentato la contesa con tanto fuoco, e da quel momento Fanny, avendo capito tutto il valore del carattere della sorella e rendendosi conto di quanto essa desiderasse di meritare la sua buona opinione e di come fosse disposta a ricorrere al suo giudizio, incominciò a sentire nuovamente la benedizione di un affetto presente al suo fianco e ad alimentare la speranza di essere utile a uno spirito così bisognoso di aiuto e così meritevole di incontrarlo. Diede consigli, consigli troppo sani perché un sano buonsenso vi opponesse resistenza, e dati con tanta mitezza e tanta considerazione da non irritare quel temperamento non ancora perfettamente domato. Non di rado Fanny ebbe la gioia di constatarne gli effetti positivi, non poteva aspettarsi di più, poiché mentre capiva tutta la necessità e l'opportunità della sottomissione e della sopportazione, vedeva però e percepiva acutamente, piena di simpatia, tutto quello che di ora in ora doveva essere urtante per una fanciulla dell'indole di Susan, e ben presto si trovò a riflettere che il fatto più sorprendente non era che Susan fosse arrivata, reagendo alla mancanza di rispetto e agli scoppi di collera di fronte a certe provocazioni, pur sapendo sostanzialmente quale fosse il suo dovere, ma che fosse capace di tanti slanci buoni e di idee così sensate, che pur essendo cresciuta in mezzo alla negligenza e all'errore, Lei, che non aveva avuto un cugino Edmund a indirizzare il suo pensiero o a fissarne i principi, si fosse formata un tale codice etico. L'intimità, così iniziata fra le sorelle, fu di mutuo vantaggio. Sedendo insieme al piano di sopra, evitavano buona parte del trambusto che imperversava in casa. Fanny trovava pace e Susan imparava a capire che lo starsene tranquillamente occupata non costituiva una calamità. Il caminetto era spento, ma questa era una privazione familiare perfino a Fanny, e ne soffriva tanto meno in quanto le ricordava la stanza est. Era l'unico punto di somiglianza. Quanto a spazio, a luce, a mobili e a vista, non vi era nulla di simile fra i due ambienti, e spesso Fanny sospirava al ricordo di tutti i suoi libri, delle sue scatole e delle comodità che vi godeva. A poco, le ragazze giunsero a passare la maggior parte della mattinata al piano di sopra. Da principio solo cucendo e chiacchierando, ma dopo alcuni giorni il ricordo dei suoi libri divenne così imperioso e stimolante che Fanny trovò impossibile non ricercarne nuovamente la compagnia. Nella casa di suo padre non vi erano libri, ma la ricchezza rende audaci e ricerca il lusso, e una parte della sua trovò la via di una biblioteca circolante. Fece l'abbonamento, sbalordita di sentirsi qualcuno in prima persona, sbalordita dalla sua iniziativa e da tutte le inerenti implicazioni. Essere in condizione di prendere a prestito dei libri, di sceglierli. Ma era proprio così. Susan non aveva letto niente e Fanny desiderava ardentemente farle condividere i primi piaceri da lei gustati, ispirarle l'amore per le biografie e per la poesia che tanto prediligeva. In questa occupazione sperava, inoltre, di soffocare alcuni ricordi di Mansfield, troppo pronti a invaderle la mente quando erano unicamente le sue dita ad essere occupate. E specialmente in quei giorni desiderava di essere capace di distrarre i suoi pensieri, intenti a seguire Edmund a Londra, dove, in base alle informazioni dell'ultima lettera della zia, sapeva che gli si era recato. Non aveva dubbi su quanto sarebbe seguito. L'annuncio promesso le incombeva sul capo. E quando il postino bussava ad una porta vicina, provava ogni giorno un senso d'affanno. E se la lettura poteva allontanare quel pensiero anche per una sola mezz'ora, era tanto di guadagnato.